Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La moto colpì la palla e si impennò disarcionando il poliziotto e cadendo pesantemente per terra, sfregando l'asfalto. Si arrestò dopo circa 2 metri, con il piede del poliziotto incastrato sotto la moto. Ebbi solo il tempo di mettermi le mani nei capelli. Sono Andrea, vivo a Mapello in provincia di Bergamo, ho 47 anni, sono sposato con Miriam, ho una cagnolina che si chiama Isha. Spiegherò di nuovo. La ragazza uccisa le somigliava molto. E non ce la faccio, ormai ho una perversione totale per le strade di San Francisco in diretta, mentre siamo qua nello studio Radio 24, in diretta da Milano e la televisione, non so perché, sempre accesa sulla 7, sulle strade di San Francisco. Paolino, cominciamo. Sono le 16:10, buongiorno a tutti, Radio 24, questa è Voi Siete Qui, oggi raccontiamo una storia, come facciamo tutti i giorni, e casualmente c'entra un poliziotto, forse per questa forma di perversione nei confronti delle strade di San Francisco. C'entra un poliziotto, ma c'entra soprattutto il senso di colpa. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui, Radio 24. Ce n'è uno Twitter del programma, che è Voi Siete Qui, R24. E uno invece personale mio, che è Matteo Caccia su Twitter. Oggi parliamo di quella cosa che magari ancora di voi, ancora qualcuno di voi ha in sospeso. Cioè, se avete una colpa da ammettere, fatelo liberamente. In questo momento, in un lunedì qualunque di metà novembre alle 16:10, se siete in auto e state tornando a casa o vi state spostando in qualche luogo di lavoro, se avete un figlio in automobile perché l'avete caricato appena uscito da scuola, qualsiasi cosa stiate facendo, se avete ancora una colpa, ma una roba piccola, non vi chiedo di confessare un peccato enorme, però semplicemente, sì, è vero, quella volta ho fatto quella roba lì e non l'ho ammessa. 349-238-6666, Gianluigi mi scrive: 12 anni, io e Federico facevamo un giro nelle campagne intorno a casa, ad un certo punto ci cade l'occhio su un fosso pieno d'acqua, lo guardavamo scorrere pacifica, poco più avanti una vecchia chiusa con adagiata vicino alla sua paratia in legno, uno sguardo d'intesa e l'avevamo già infilata nelle guide, in men che non si dica il livello dell'acqua sale fino a riversarsi nel campo adiacente. Insomma, rinsaviscono, vi la faccio breve perché è più lunga, rinsaviscono, cercano di infilare la paratia, ma la pressione dell'acqua è troppo forte e non ce la fanno. A quel punto semplicemente scappammo con la bici. Ricordo che il giorno dopo passammo di nuovo vicino al campo e sul posto, e al suo posto trovammo un lago sul quale si specchiava un bel cielo azzurro. Ammettete le vostre colpe, 349-238-6666. Questa è la storia di Andrea, questa è la storia di una colpa. Per un breve periodo sono stato l'unico bambino del quartiere ad avere un pallone di cuoio. Il quartiere era un po' isolato rispetto al resto del paese, si chiamava Villaggio Donizetti. Il pallone era molto usurato, non aveva più i pentagoni neri e gli esagoni bianchi, aveva assunto un colorito grigio omogeneo. Anche l'odore era passato dal fantastico profumo di pallone nuovo all'odore di spago bagnato a causa dell'acqua assorbita durante le partite tra le pozzanghere. Io non ero un granché come calciatore, ma il possesso del pallone mi rendeva indispensabile per le lunghe e affollate partite di calcio a cui partecipavano tutti i bambini del villaggio. Le partite erano una serie ininterrotta di sfide, rivincite e chi segna questo vince tutto. Erano pochi i motivi che potevano portare alla sospensione delle partite. Potevano essere sospese per l'oscurità in inverno, oppure per l'arrivo dell'ora di cena in estate, quando le mamme inviperite, dopo aver urlato per mezz'ora dalla finestra, venivano a recuperare uno o più dei loro figli. Il terzo e più frequente motivo era la fuga del bambino proprietario del pallone, che non essendo d'accordo sul rigore appena decretato, scappava a casa frignando e portandosi dietro la palla. Ma questo non era il mio caso. C'era anche il pericolo di chi, una bastardina molto vispa, lontana parente di un pastore tedesco, che era stata adottata dal villaggio. Era molto buona e mansueta, ma era terribilmente ghiotta di palloni. Quando faceva le sue incursioni nel campetto, la normale partita di calcio si trasformava in un tutti contro la Dicky. La partita durava pochi secondi, perché se non si riusciva a far sparire il pallone, lei immancabilmente lo bucava. Il campetto era disseminato di alberi, e più che un rettangolo di gioco, era un pentagono irregolare, tanto che battendo il corner si poteva tirare direttamente in porta. In più, il campetto confinava con un tratto in discesa della strada statale 42 del Tonale e della Mendola, strada pericolosa e trafficata, croce e delizia di noi bambini. Il campetto aveva una rete molto bassa ed era vicino a una strada molto trafficata, questo è il problema principale. Era un campetto per giocare noi bambini piccoli, c'era dentro della sabbia e della terra, poi piano piano è diventato un campetto da calcio. Da quella strada passava ogni anno il Giro d'Italia. Era più bello negli anni in cui passavano in salita, così potevamo vedere Moser, Saronni e Inò sudare sui pedali. Mentre negli anni in cui passavano in discesa erano così veloci che si distinguevano solo le maglie delle squadre e si sentiva il fruscio delle biciclette. La cosa più importante del giro erano i camioncini della carovana che lo precedevano e che regalavano magliette, cappellini, bevande. Quel tratto di discesa, con curve brusche, era anche teatro di numerosi incidenti. I più spettacolari erano i camion dell'acqua Boario, che si ribaltavano seminando acqua e vetri e rendendo la strada impraticabile per ore. Una volta un camion con targa straniera era finito nella scarpata e il conducente era fuggito. Avevamo saputo poi che il camion ed il carico era carico di lampadari ed erano stati rubati. Durante le nevicate, invece, dal campetto potevamo assistere divertiti ai maldestri tentativi dei guidatori di liberare le auto impantanate. Inevitabilmente quelli targati Milano mettevano le catene alle ruote posteriori se avevano trazione anteriore e viceversa. Noi potevamo solo ridere a crepapelle, perché eravamo troppo piccoli per poterli aiutare e le madri di tutto il villaggio avevano imposto il divieto ai loro figli di avvicinarsi alla statale. A volte passavano trasporti eccezionali, che sono quei camion pieni di lampeggianti arancioni, che uscivano dall'acciaieria con grossi rimorchi, dotati di 30 ruote mangiapalloni. Alla velocità di 30 km all'ora trasportavano strane sculture d'acciaio, apparentemente senza senso. Mio papà mi aveva detto che quei grossi pezzi d'acciaio erano parti di navi, oppure parti di cannoni, commissionati da stati esteri. La statale era anche il cimitero di tutti quei palloni che durante le partite avevano la sventura di superare la recinzione. Scomparivano sotto le ruote dei camion e passavano a migliore vita, con un botto per noi tristissimo. Lizards coming in their dozens, in shifting light through narrow windows, smeared with the grease of ovens. I have unattractive nurses in my dreams. Stack low like pancakes, busy like anthills. I tell you because it's true. Kids jump off bridges, lions rip the necks off lizards, terrifying buses filled with dead tree trunks, mud spattered grill guards, black and burnt out ceilings, and the sofas with their stuffing spilling out like guts. You go to the woods, you will find me in the crackle of a trash can fire. When you come back to me, still shaped by my ear like a melody, unbuttoning your clothes, unbuttoning my clothes. Where you come from, goodness only knows. Carlo era il bambino più abile nel recuperare i palloni e di solito mandavamo lui. Appena la palla usciva, Carlo scavalcava la recinzione e si buttava all'inseguimento della palla. Una volta era stato tirato sotto da un'auto ed era stato trasportato in ospedale con la macchina del padre a clacson spiegato e fazzoletto bianco a sventolare dal finestrino. Si era risvegliato in ospedale con un trauma cranico e varie costole rotte, chiedendo dove fosse finito il pallone. Un giorno eravamo in 10 a giocare. Non mi ricordo chi calciò il corner, ma lo calciò proprio male, teso, a mezza altezza, impossibile da prendere sia di testa e tantomeno di piede. Insomma, non la prese nessuno. La palla fece un solo rimbalzo, superò la recinzione e finì in strada. Io mi aggrappai alla recinzione e scoprii con terrore che stava arrivando un carico speciale. Davanti e dietro al camion due scintillanti moto Guzzi della polizia stradale. Sono sicuro che la cosa si svolse a velocità normale, eppure il mio ricordo è a rallenti. La palla rimbalzò alcune volte sulla strada. Il motociclista della stradale, dotato di occhiali da vista come fondi di bottiglia, guardò la palla e ne seguì la traiettoria con lo sguardo. Non tentò di frenare, tantomeno di curvare, ma vide la palla infilarsi sotto la sua ruota anteriore. La moto si impennò, disarcionando il poliziotto e cadendo pesantemente a terra, sfregando l'asfalto. Si arrestò dopo circa 2 metri con il piede del poliziotto incastrato sotto la moto. Io ebbi solo il tempo di mettermi le mani nei capelli. Mi voltai cercando il conforto dei miei amici e mi accorsi che sul campetto ero rimasto solo. I miei amici purtroppo non li vedo più perché mi sono trasferito e non vivo più a Lovere, dove era il campetto. E non saprei neanche ricordarmi i nomi. Mi voltai di nuovo verso la strada. Il motociclista si era disincastrato e rialzato, mi puntava contro il dito mentre si massaggiava il ginocchio. Qualche minuto dopo gli stavo dando le mie generalità con le lacrime agli occhi e la candela al naso. Quando andò via, recuperai il pallone nella scarpata. Era intatto. Quella notte presi sonno a fatica. E due giorni dopo, tornando da scuola, vidi una Giulia della polizia sotto casa. E lì pensai che fossero venuti ad arrestarmi. Entrai e trovai il poliziotto dagli occhiali a fondo di bottiglia che sorseggiava un caffè parlottando con mia mamma in salotto. Lo salutai quasi sull'attenti, cercando di farmi il più piccolo possibile. E rimasi in piedi davanti a lui in attesa che si compisse il mio destino. Tenevo la testa bassa come se dovessi essere giustiziato in quel momento e stesse per scendere dal soffitto la lama della ghigliottina. Stavo per cominciare a piangere quando la gente mi disse di non preoccuparmi. Aveva detto in caserma che i buchi e le abrasioni sulla tuta se li era procurati da solo. Quanto alla moto, santa moto Guzzi, non si era fatta praticamente nulla. Lui aveva qualche acciacco ma nulla di grave. Mi spiegò che non aveva fatto rapporto sull'incidente perché sulla mia fedina penale ne sarebbe rimasta traccia. Io non sapevo cosa fosse la fedina penale, ma mia mamma era molto contenta e continuava ad annuire. E così mi tranquillizzai anche io. Ci chiedeva solo le 10.000 lire che aveva pagato ad una sarta per la riparazione della tuta. A quel punto pensavo che fosse finito lì e che l'avessi scampata. Invece mia mamma mi ingiunse di andare subito dai restanti 9 bambini a chiedere 1.000 lire ciascuno. Mia mamma diventò improvvisamente molto democratica parlandomi di giustizia e di equità, che eravamo tutti colpevoli e tutti avevamo gli stessi diritti e doveri. Uscii nel quartiere in cerca dei miei amici, ma non c'era nessuno. Con la pantera in cortile nessuno aveva avuto il coraggio di scendere a giocare. Fu durissimo suonare quei campanelli e convincere le 9 mamme. 1.000 lire erano circa 20 ghiaccioli, insomma una cifra di tutto riguardo che rischiava di far saltare le paghette di molte settimane. Mi sembrava di essere l'odiato sceriffo di Nottingham ed ebbi la sensazione che nella serenità del quartiere si fosse rotto qualcosa, in modo insanabile. Tornai a casa giusto per cena e consegnai le 9.000 lire a mia madre. La notte dormii sereno, il giorno dopo al campetto c'erano tutti e si riprese a giocare esattamente come prima. Di solito non accettiamo foto che non siano autoritratti ed effettivamente Andrea ci aveva mandato un autoscatto e un'altra foto. Noi abbiamo preferito scegliere la seconda, non perché lui non sia un ragazzo prestante, non abbia una bella faccia, tutt'altro, però la foto che mettiamo sul nostro sito, che trovate quindi sulla pagina di Radio24, è una foto magnifica di un tramonto, che di solito detesto le foto dei tramonti, invece questa è una spiaggia che direi forse Sardegna, di sabbia molto fine con quei rovi da sabbia che escono, il mare in fondo, il sole che si tuffa nel mare e una tenda di quelle che probabilmente si aprono lanciando, avete presente quelle che lanci e boom, boom, boom e si aprono, ben piantata sulla sabbia. Pronto Andrea? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Le domande sono due: primo, perché ci hai mandato la foto di una tenda? La seconda è: dov'è quella tenda? Quella tenda è a Rosignano Solvè. Ah certo, le spiagge Toscana. Bianche di Rosignano, sì, come no? Sì, ci ho passato sì, delle vacanze in quel posto dove non si capisce se dopo aver fatto il bagno ti nasceranno dei figli con 3 testicoli oppure è semplicemente un luogo... Sei la pelle liscia. Esatto, hai solo la pelle liscia. In teoria bisogna chiedere alla Solvè, ma probabilmente non saremo più qui quando dovremo chiedere conto. Andrea, senti, prima di cominciare la storia, io so che dobbiamo fare in fretta a fare questa telefonata perché mi diceva Margherita che poi tu devi venire a Milano a fare una cosa che non capita proprio tutti i giorni. Sì, vado da Amma, che è una indiana che abbraccia tutto il mondo, abbraccia tutti e l'appuntamento è al forum di Assago, dove lei raduna parecchia gente per per abbracciare tutti. Ok, stop. Di pace, eccetera. Fermatevi tutti, avete sentito bene? Cioè, Andrea sta partendo da, mi ricordi di dove sei tu? Provincia di Bergamo, Mapello. Mapello, come no. Sta partendo da Mapello per venire a Milano e farsi abbracciare in sostanza, giusto? Sì. Beh, questa Am si chiama, lei hai detto? Amma. Amma. Come funziona? Lei è sul palco, è seduta in un luogo ben preciso? Sul palco, e tu prendi il numerino per farti abbracciare. Poi lei va avanti ad abbracciare giorni e giorni, giorni e notti, finché non ha finito tutti quelli che vogliono farsi abbracciare. Tu l'hai già fatto con lei? L'ho già fatto tanti anni, prima era al Palafesto a Sesto San Giovanni. Cioè, nel senso che ogni anno lo fai? L'ho fatto qualche anno fa, poi ogni tanto posso, ogni tanto no, però... E mi dici che sensazione si prova a farsi abbracciare da una sconosciuta che in realtà ormai la conosci quasi? La sensazione è un abbraccio che dura 10 secondi, la sensazione bella è tutta la gente che c'è intorno e l'ambiente che si crea dentro. E l'abbraccio è un abbraccio tipo materno, è lei che abbraccia te, non si è tutti e due che ci si abbraccia. Ah, ecco, tu rimani a braccia lunghe lungo il corpo? Esatto, un po' come un picciu che è capitato lì per caso e si fa stringere. Esattamente, quella è la sensazione, però più bella. Senti, dimmi così a naso, quante persone si mettono a piangere? Non lo so, perché io di solito sono lontano dalla zona dell'abbraccio e a me ha commosso, non mi sono proprio messo a piangere, però è una cosa bella. C'è tanta gente che piange, tanta gente che magari ha dei problemi fisici e spera di avere da questo abbraccio qualche miglioramento. Chiaro. Ognuno poi c'è la sua storia. Senti, fammi venire fuori l'imprenditore brianzolo che c'è in me. Senti una roba, ma questa qua di che cosa campa? Abbraccia la gente? Questa qui, con i soldi che tira su in queste cose, proprio solo di, diciamo, offerte. Di offerte, sì. C'ha degli ashram in India dove ha messo su una roba per i poveri, ma penso che gestisca non so quante migliaia di persone, riesce a sfamarli, riesce a fare delle cose incredibili. E questa cosa, scusami Andrea, non ha una valenza religiosa? Se vuoi vederci una valenza religiosa ce la puoi anche vedere, ma lei, il messaggio è quello proprio di pace, di abbracciare il mondo e di... Non penso che abbia una valenza religiosa. Una sorta di Gandhi che invece di stare seduto abbraccia, sì, gira il mondo e abbraccia, sì, le persone. Sì, esatto. Andrea, ti ringrazio, questa cosa non la sapevo, magari dopo mettiamo su Facebook qualcosa perché mi piace già tantissimo. C'è un sito, si chiama Amma, lei è semplicissimo, Amma. Senza H, senza niente. Tra l'altro, se siete dalle parti del forum, hai detto? Allora, credo che sia il forum, mi porta sempre mia moglie, ma okay. L'ultima volta era al forum di Assago. Ok, siete da quelle parti, fate un passaggio. Ci siamo praticamente bruciati tutto il tempo, Andrea, però io vorrei tornare un attimo sul tuo racconto, perché sì. Ho la sensazione che questa storia abbia a che fare con il fatto che la colpa non è meritocratica, la colpa piglia uno, ci va dritta contro e quello se la deve ciucciare, a meno che non ci sia una madre che dica, no ciccio, la colpa deve essere democratica, quindi la dividi con tutti gli altri. Certo, in questo caso sì, non so quanto fosse democratica mia mamma o quanto volesse rientrare, diciamo, del 10.000 lire, però... Scusami, però quella roba lì che tu vai a bussare, quanti anni avevi, scusami, me lo ricordi? Avevo circa 11 anni, non mi ricordo se ero in quinta elementare. Cioè, l'imbarazzo di dover andare a bussare alla porta di 9 case e dire dovete darmi 1.000... Avevi studiato una formula? Salve, abbiamo fatto cadere un poliziotto, gli abbiamo rotto la divisa, deve darmi 1.000 lire perché no, eravamo in 10. Allora, non c'era tanta formula perché tutti sapevano. Era successo. Quindi e quanto poi divenire... c'era appena stata giù la pantera della polizia, per cui erano tutti avvertiti. Insomma, tu eri una sorta di riscossore delle tasse. Quando ti vedevano la tua faccia, dicevano vabbè, dai, prendi le 1.000 lire. Sì, però l'imbarazzo era forte, sia mio che loro, insomma. Lo immagino, e soprattutto mi diverte il fatto che quando viene fuori la parola fedina penale, che ovviamente nessuno di noi da bambino sa che cosa sia, però la fedina penale sporca è una roba che ti porti dietro per il resto della vita. Andrea, ti ringrazio per la storia, ti devo lasciare andare primo perché devo chiudere il programma e poi perché tu stai partendo devo per Milano e quindi abbracciare. Io ti auguro un buon abbraccio e in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo. Grazie a te, mille. Ciao Andrea. Ciao. Si è scatenato l'inferno al 349-238-6666. C'è qualcuno che ricorda che Nicoletti solleva le donne. Non so se lo fa più, lo fa una volta, non lo fa più, lo faceva prima. E poi soprattutto qualcuno chiede: questa cosa degli abbracci è per instabili mentali o anche per gente normale? Guarda, non so quale sia la differenza, però ho la sensazione che tu ne abbia bisogno un pochettino. Ciao Matteo, mi rifai il rumore della tenda che si apre? Come no? Ma la tenda che si apre mai fatto, però te lo faccio. Ah, Ah, la tenda che si apre, certo. No, non me lo ricordo. Però se vuoi ti faccio il rumore della macchina del tempo. È questo qua. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e soprattutto Andrea. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Ciao, sono Dario, abito a Codigoro in provincia di Ferrara. La storia di domani è la mia e parla di quando ho rapito mia moglie. Questa è la mia storia e io sono qui.